Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis, si chiama Active House, il nome insomma parla chiaro. L'idea è quella di una casa attiva che cioè produce più energia di quanta ne consuma. Però il nome in realtà non dice che una parte di quanto non sia alla base di quella che non è né una certificazione né un protocollo, ma una specie di filosofia progettuale sposata da una quarantina tra imprese, studi di progettazione e istituti universitari sparsi per mezza Europa, i quali hanno dato vita alla Active House Alliance. Dicevo, una filosofia ma anche un mix di strumenti per svilupparla. Ne parliamo con Marco Imperadori, professore del Dipartimento di Architettura del Politecnico di Milano, che qualche tempo fa, ve lo ricorderete, forse ci ha parlato di piastrelle al fango e cemento alle ostriche, ed è anche però membro della Active House Alliance in rappresentanza del Politecnico di Milano. Bentornato Imperadori. Grazie, buonasera a tutti. Eccoci qua. Dunque, dicevo dell'energia, che però è solo uno degli aspetti che voi prendete in considerazione, no? Sì, l'energia è uno di questi aspetti, gli altri considerati da questo protocollo di validazione, perché non si tratta di una certificazione, sono il comfort e l'ambiente, e è molto interessante capire come questo, visto che si parla spesso di Horizon 2020, è un po' uno strumento che ci deve guidare verso questo orizzonte. Di fatto il progettista a livello quantitativo definirà alcuni parametri che sono poi materializzati da un radar che è via in fase di ulteriore ampliamento, che ci guida su alcuni punti fondamentali per ottenere queste tre caratteristiche il più possibile bilanciate. Ecco, spieghiamo bene questa storia del radar, no? È un grafico, sì. Un radar o anche diciamo una ragnatela fa venire in mente. È una sorta di fila di ragno, più si sta sul perimetro esterno ottenendo il miglior punteggio. Su ognuno dei raggi, perché si divide in tanti raggi, sì. Sono tre comparti, uno per l'ambiente, uno per l'energia, sì. Uno per il comfort, ognuno a sua volta diviso in tre o quattro indicatori, e per ognuno di questi viene assegnato un punteggio, no? Dal centro verso l'esterno, per cui si compone unendo i punti. Si compone un grafico che è con un'area al centro. Più è grande e meglio è, no? Più è grande e meglio è, più si è stati virtuosi. Okay. E ciò significa anche che però in certi casi si può notare come questo sia uno strumento vero e proprio all'ausilio alla progettazione, perché spostando alcuni parametri di una componente del radar, comfort, si toccano anche gli altri componenti. Quindi in realtà non si tratta appunto di uno strumento di certificazione, del resto il software è totalmente libero e free, quindi un progettista può inserire il proprio modello di progetto fatto appunto di variabili termiche, di variabili di sostenibilità, di variabili appunto di comfort, luce naturale, ventilazione, ma muovendosi su questi parametri quantitativamente ottiene dei punteggi che poi toccano anche la reazione degli altri punti. Ecco, quindi oltre a essere diciamo una visualizzazione immediata, adesso è difficile magari descrivere in radio, ma basta vedere, invito insomma a visitare il vostro sito o quello di Active House Alliance, è immediato, si capisce subito. Sì. E quindi potrebbe essere adatto come modalità grafica, diciamo, per una etichetta un po' più evoluta di quella energetica, ma è soprattutto uno strumento di progettazione. Ecco, ci fai un esempio, quando dicevi che posso magari migliorare una cosa e peggiorarne un'altra, questo grafico visualizza subito fenomeni di questo tipo? Io voglio migliorarla, per esempio un cappotto esterno, e quindi aggiungo guadagno dal punto di vista termico perché è un cappotto molto importante, ma ecco che agendo sul cappotto, limitando, quindi aumentando il volume esterno di isolamento, incido sulla quantità di luce naturale. Sì, perché intubo la finestra praticamente, no? Poi magari metto una finestra efficiente che però fa passare solo una parte della luce. Giustamente, quindi ho una finestra estremamente efficiente che quindi dal punto di vista energetico mi consente una grossa resistenza termica, ma dal punto di vista illuminotecnico mi consente di avere un fattore di luce diurna molto basso e quindi sono costretto ad accendere le luci all'interno. Quindi i due punti sono interdipendenti. E questo radar appunto evidenzia immediatamente questo tipo di effetti, questo tipo di ricaduta, per cui è uno strumento proprio di progettazione. Senta, lo può usare chiunque? Ci spiega come si fa? Lo può usare chiunque, la questione è proprio quella, se vogliamo un po' difficile adesso, che la modellazione termica è una modellazione soprattutto per il parametro estivo, cosa molto interessante dalle Alpi in giù in tutta Europa, che richiede un'abilità del progettista di maneggiare un software dinamico. Nel nostro caso al Politecnico noi utilizziamo Transys, e quindi il fatto è che bisogna dare le cosiddette temperature operanti orarie all'interno di un edificio, avere il file climatico esterno, quindi una serie di cose forse non attualmente non facilissime, però io consiglio lo stesso ai progettisti di entrare, di provare gli altri parametri, di iniziare a farsi le ossa, perché l'orizzonte è il 2020, siamo nel 2014, e poi di fidarsi magari di qualche collaboratore giovane, neolaureato, che questi software li sa anche usare veramente, vero? Si può provare liberamente, si va sul sito, sì, ci si registra e si può utilizzare, sì, questo strumento, che comunque insomma anche per fare una prova potrebbe valerne la pena, dice, vero? Assolutamente. Grazie Marco Imperadori. Grazie a voi.